sono siciliano, nativo a Trapani, coniugato in provincia di Messina e dopo separato, e dopo sono andato un po' per il mondo. Ho cominciato ad andare in Germania a lavorare e dopo, quando mi sono fermato qui, ho lavorato al mercato della frutta per 7 anni. Dopo qui ho conosciuto una donna che era libera e così mi sono messo con lei. Ora purtroppo mi è morta da 8 anni e sono rimasto solo. Avevo anche un cane che mi faceva compagnia e ora e tutto questo è... Sono stato un po' sbandato di qua e di là. Della Sicilia, nativo da Trapani, però coniugato in provincia di Messina, vicino Barcellona. E lì ho conosciuto una ragazza, me l'hanno presentata, matrimonio fatto in famiglia, che si usa in Meridione. E là mi sono sposato, dopo 4 anni ci siamo lasciati. E sono andato un po' in giro, un po' con un circo. Vendevo Coca-Cola, aranciati, aiutavo a fare, a sistemare, il lavoro che si fa tutti, per guadagnarmi un posto per dormire e un pezzo di pane. Quando ero in Sicilia avevo già 17 anni, e ancora ero giovane, voglio dire, non conoscevo tanto il mondo. Mentre qui, essendo che ero in cerca di lavoro, sono andato al mercato della frutta, Piazza Mercurio, il vecchio mercato di una volta. Ero andato là, se mi prendevano, mi fa una persona, dice, del magazzino, dice, noi abbiamo bisogno, dice, posto, voglio dire, per sempre. E ho detto, io vado cercando quello, mica per un giorno. E così ho cominciato con 20.000 lire. Mi davano 20.000 lire alla settimana, a quei tempi. Sono stato tanti anni. E dopo ho detto, ho messo con questa donna qui, che ci siamo messi insieme. E così, purtroppo, dopo 8 anni, mi è morta. Mi sono preso, avevo 2 figlioli sue, mi hanno dato un cane da caccia, e mi sono trattenuto quello lì che mi faceva compagnia. Ora da 2 mesi mi è morto anche quello. Ho una stanzetta come fondo. E prima abitavo con lei e a me ora mi hanno lasciato un fondo dove poter stare per la vecchiaia. Adesso è cambiato perché ci sono troppi stranieri e quello è il problema. Una volta non c'erano tutte queste persone. Se uno si fa gli affari suoi è bello tranquillo, non c'è poi nessun problema. Allora loro fanno, voglio dire, fanno il loro lavoro, perciò non è che a noi ci danno, che c'è albanese, ci sono marocchini, ci sono romeni, è diventato... Certe volte la mattina vado al mare, certe volte non ho voglia di andare in giro perché non riesco a camminare per fatto della gamba, e allora me ne sto qui bello tranquillo. Tutti mi salutano perché sanno che io sono una persona civile, perciò non è che dici faccio i miei affari. In Sicilia si dice vedi e non noci, quello che vedi non sa mai niente, perciò non fastidio a nessuno, perché non sono di quelli per rumori, quella roba lì. Mi piace stare in solitudine. No, mi piace la solitudine.